Ah, infatti lei che fa parte dei maledetti suggerisce. Oggi si continua il blocco sull'autostrada per il Fréjus. Abbiamo visto anche un grosso spezzone di studenti arrivare al blocco autostradale. E dopo, allora, un commento prima di tutto dopo il tragico attacco della scorsa notte e di come pensate si potrà continuare questo tipo di lotta. Allora, innanzitutto dobbiamo rimanere tutti uniti, dobbiamo essere coscienti e consapevoli di quello che è successo. È stato fatto del male a delle persone innocenti che dormivano, che erano tranquille e non avevano nessuna intenzione bellicosa, sono state attaccate nel cuore della notte e non si potevano assolutamente difendere. Non hanno neanche tentato di difendersi perché non hanno tentato di attaccare, sono state solo attaccate. Noi nonostante questo continuiamo a lottare in modo pacifico. Anche noi oggi come studenti abbiamo fatto una marcia pacifica, siamo partiti da Susa, tutti compatti, tutte le scuole, i licei, gli istituti che ci sono da Ulzio a Susa Bussoleno, ci siamo uniti e siamo venuti fino a Bussoleno pacificamente. Nell'attimo in cui dovevano passare macchine come ambulanze eccetera le abbiamo fatte passare, non abbiamo creato disordini e continueremo a mantenere questa linea. Domani si andrà a Venaus, ci sarà un'altra marcia da Susa a Venaus, sperando che si possa fare qualcosa di nuovo sul cantiere che è iniziato ieri. Avete sentito i commenti di Pisano di ieri? Non è successo niente, non c'è stata nessuna carica, è vergognoso. Sì, sono state dette delle bugie, in questo momento i mezzi di comunicazione vengono usati in modo sbagliato. Perché il governo non è dalla parte dei cittadini in questo caso, probabilmente è dalla parte di interessi superiori, interessi economici che non fanno il bene né del Piemonte né del paese. Vuoi aggiungere qualcosa? No, detto tutto.